e ancora adoro te, contemplo te, luce del mondo, perché io solo in te mi sento amato nel profondo. E ancora adoro te, contemplo te,